Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo K, ovvero un fatto banale, quasi sicuramente una semplice formalità, con ogni probabilità pura finzione. Liberamente tratto da Il processo di Franz Kafka nell'adattamento di André Gide e Jean-Louis Barrault. Regia Francesco Villano, assistente alla regia Rosaria D'Antonio, con Simone Alessandria, Fulvia Carlini, Marzia Colandrea, Nicola De Santis, Francesca Gianmaria, Eleonora Leone, Daria Mariotti, Sonia Scorti, Linda Sessa, Agostino Terranova. Buonasera, benvenuti. Accomodatevi. Stiamo per iniziare. Buonasera. Chi sarà il primo concorrente fortunato di questa serata? Mariotti Daria. Sì, grazie, grazie, grazie. Complimenti. De Santis Nicola. Sì, sì, Dio, grazie, grazie, grazie, grazie. Congratulazioni. Scorti Sonia. Sì, sì, sì. Carlini Fulvia. Sì, grazie, grazie, grazie, sì. Gianmaria Francesca. Sì, sì, sì, grazie. Terranova Agostino. E vai, sì, sì, sì, sì. Sessa Linda. Sì, sì, grazie, grazie. Ma oggi è il mio compleanno. Me ne ero completamente dimenticato. Se la signorina Bürstner lo sapesse, mi regalerebbe di certo un mazzolino di violette. Cosa posso escogitare per la mia festa? Qualcosa che rompa la monotonia di tutti i giorni. Ne ho fin qui io della monotonia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Mr. K. E allora? Dov'è la mia cioccolata? Questa sì che è bella! La signora Grubach che si dimentica di me! E mi fa fare tardi! Cosa mi combina stamattina la signora Grubach? Se ne infischia di me! Signora Grubach! Signora Grubach! Signora Grubach! Desidera? Ha suonato. Chiamavo la cameriera. Perché? Come perché? Non è permesso chiederle perché ha chiamato la cameriera? Perché mi porti la cioccolata. La cioccolata? Il signore pretende che la cameriera gli porti la cioccolata? Caro signore, io non pretendo proprio nulla. Voi piuttosto. Cosa ci fate qui nella mia stanza? Calma, calma, lei non può non ignorare forse che noi... Forse intende, lei non può non sapere. È un errore che la gente comune fa spesso. Ebbene no, qui sta l'errore. Io ignoro tutto e non voglio sapere nulla. E non capisco perché la signora Grubach vi abbia fatti entrare. Non può uscire. Ma voi, signori, chi siete? Questo non la riguarda. Siamo qui per arrestarla. Arrestarmi? E perché? Non siamo autorizzati a dirglielo. Vada in camera sua e aspetti, non c'è altro che possa fare. Deve darci atto che noi la trattiamo con gentilezza. Personalmente non abbiamo niente contro di lei. Se le altre guardie in seguito saranno educate quanto noi, non avrà davvero di che lamentarsi. Le guardie? Ma di che si tratta? Ormai la procedura è avviata. Saprà tutto a tempo debito, mano a mano che la faccenda segue il suo corso. Si è tenuti al corrente abbastanza in fretta. Non ha una vestaglia meno fine? Questa la fidi a noi. Anzi, faccia così. Ci dia tutta quanta la sua roba. È meglio perché giù al deposito... Ascolti. Giù al deposito non si sa mai come va a finire. Le guardie rivendono tutto e se il processo va per le lunghe finisce che dimenticano di renderne conto. La cosa più semplice per lei sarebbe ricomprare ogni cosa direttamente da noi. Non so se mi sono spiegato? Signori, ancora non capisco. Io devo credere di essere vittima di uno sbaglio. O di uno scherzo grossolano da parte dei colleghi della banca. Forse perché... Proprio oggi compio 30 anni! Con un sorriso forzato. Avanti, signori. Confessate. La commedia è durata abbastanza. Oh, scusate! Entri pure, signora Grubach. La signora non può entrare. E perché non può entrare? Ma perché lei è in arresto. Ma perché sono in arresto? Andiamo, amico mio, non vorrà mica ricominciare. Lei farebbe meglio rimanere in camera sua. La mia carta d'identità. Potrete rendervi conto che si tratta di un errore. A proposito... Fatemi vedere il mandato di perquisizione. Santo cielo, com'è testardo! Si direbbe che voglia irritarci ad ogni costo. Proprio noi, che in questo frangente siamo forse le persone che le sono più vicino. La mia carta d'identità. E noi che ce ne facciamo? Lei si comporta come un bambino. La mia carta d'identità. Deve capire che a noi non importa chi lei sia. Siamo solo agenti subalterni. Le autorità che rappresentiamo indagano scrupolosamente prima di darci degli ordini. Nella fattispecie non si tratta di reati di diritto comune, bensì di reati che, come dice la legge, discendono da una colpa rispetto ai quali le stesse autorità competenti devono attenersi a dei regolamenti superiori. Questa è la legge, non c'è possibilità di errore. Non conosco questa legge. Senti questa, dice che non conosce la legge. Allora come fa a sapere di non essere colpevole? Non c'è verso di farglielo capire. Mi spiegherò con un vostro superiore, voglio vederlo. Lo vedrà quando sarà convocato. E cerchi di riposarsi e di riacquistare le forze che ne avrà bisogno. Questi mascalzoni non mi fanno andare in banca. Cosa racconterò al vice direttore? La verità. Non mi crederà mai. Ho dei testimoni però. Se gli dà fastidio di essere citati come testimoni, che non se ne stiano lì a guardare. Io non ho niente da nascondere a nessuno. Joseph Kappa? Occupato. Joseph Kappa, il brigadiere la vuole. Finalmente. Oh, un po' di decenza davanti al brigadiere. Mi avete sorpreso appena alzato. Come vi aspettavate di trovarmi? In abito da sera. Non faccia tante storie, si vesta come si deve. Ci vuole una giacca scura. Sì, e una cravatta, non troppo vistosa. Ecco, così. Sta benissimo. Andiamo, venga dal brigadiere, venga. Joseph Kappa, l'ha sorpresa la visita di stamattina, vero? Diventa improvvisamente gentilissimo. Certamente, signor brigadiere, è vero. Non me l'aspettavo. Ma non sono poi molto sorpreso, in fondo. Non molto, dice lei. Posso sedermi, vero? Bah, veramente non si usa. Mi spiego subito. Vede, io sono stato allevato da uno zio e siccome le cose non sono sempre state facili, sono come immunizzato, se così posso dire, di fronte alle sorprese. No. Scusa. Cerchi di capire, non la prendo sul tragico, ma sul serio, sì. Com'è vero che escludo l'idea di uno scherzo. Giustissimo. Ma non trovo la minima colpa della quale mi si possa accusare. Perciò lei mi scuserà se io non riesco a prendere questa faccenda... Esitano un poco. Sì, insomma, molto sul serio. Ha torto! Quel che più mi sta a cuore è sapere da chi sono accusato. Non dico ciò di cui mi si accusa, ma da chi... Il mutismo del brigadiere lo turba. Insomma, perché se lo sapessi, forse potrei... Chi le dà gli ordini? Fra persone della stessa condizione, si può sempre arrivare a un'intesa. Sono convinto che, dopo una breve spiegazione, franca e cortese, che metta le cose bene in chiaro, Potremmo salutarci cordialmente, quasi come vecchi amici, mi capisce, vero? Grave errore. Questi signori e io abbiamo nella faccenda in corso, e sottolineo in corso, una parte secondaria. Per non dire subalterna, noi non sappiamo quasi niente di lei, né chi l'accusa, né di che cosa è accusato. Tuttavia, lei non è soltanto accusato. Lei è in arresto, il che non è la stessa cosa. Questo è quanto. Il mio compito qui non è di rispondere alle sue domande. Toccherà a lei rispondere quando sarà interrogato. Comunque, Coppa... Cappa. Vabbè, è uguale. Dato che mi sembra una brava persona, le darò un consiglio. Si occupi meno di noi altri e badi un po' di più a se stesso. E non sbandieri troppo la sua innocenza. Compromette l'impressione piuttosto buona che nel complesso riesce a dare. Con calma apparente. Il procuratore Hasterer è mio buon amico. Posso telefonargli? Certo che può, ma non ha molto senso. Come sarebbe a dire non ha senso? Ha senso quello che fate voi qui? Voi mi aggredite, mi mettete alle strette, passate a setaccio ogni mia parola, ogni mio gesto. E quando voglio chiamare il mio amico, il procuratore Hasterer, per informarlo che sono in arresto e per informarmi, lei ha la faccia tosta di dire che non ha senso. Si vergogni. Scusi. Va bene. Va bene. Non telefonerò. Ma sì, telefoni pure, la prego. No, non voglio più. Va alla finestra con l'aria di un ragazzino imbronciato. E smettetela di guardare, voi spioni! Cappa, ritorni verso il brigadiere con atteggiamento conciliante, quasi allegro. Comunque stiano le cose. Penso non vi sia altro da fare, sarete d'accordo? Di chiudere tutto con una bella stretta di mano. Le cose sono meno semplici di quanto lei vorrebbe, di come lei sembra credere che siano. Tuttavia, non c'è ragione di disperarsi. Lei è in arresto, ma per adesso niente di più. Sono venuto soltanto per informarla e per vedere come prendeva la notizia. Per oggi può bastare. Adesso penso vorrà andare in banca e svolgere le sue normali occupazioni. In banca? Io credevo di essere in arresto. Vero, però una cosa non esclude l'altra. Lei può continuare a condurre la sua solita vita come se niente fosse. Provvisoriamente, ovvio. Ovvio. Ovvio. Drin. Drin. Drin, drin, drin. Si desidera parlare al procuratore Joseph K. Voglia scusare il disturbo in orario di lavoro, ma è importante che lei sappia, l'istruttoria prosegue regolarmente. Il suo numero di pratica è MCK9027. Poiché la si vorrebbe distogliere il meno possibile dalle sue occupazioni, si è ritenuto che il giorno più adatto sia la domenica. Lei è tenuto a presentarsi in Juju-Strasse. K. Volevo chiederle se domenica prossima mi farà la cortesia di partecipare a una festicciola che darò sulla mia barca. Qui suo amico, il procuratore Hasterer, mi ha promesso che sarà dei nostri. Lei accetta senz'altro, non è vero? Palesemente indispettito a causa della telefonata interrotta. Sono desolato, signor vice direttore, ma temo di non essere libero per domenica prossima. Ah, va bene. Non insisto. Drin, drin, drin, drin, drin. Drin, drin, drin. Pronto? Credo sia per lei. Per me. Si cercherà in ogni modo di essere gentili con lei e di disturbare il meno possibile la sua attività professionale. Allora resta inteso per domenica. Non avrà che da chiedere del falegnamelà. Oh, sì. Chieda semplicemente del falegname. Hans. Sempre al lavoro, signora Grubach? Per forza, signor K. Durante il giorno devo occuparmi degli inquilini, così alla sera lavoro un po' per me. È l'unico momento che ho a disposizione. Venivo a pregarla di scusarmi per il disturbo, signora Grubach. Di che cosa, signor K? Ah, lei intende quelle persone che son venute. Ho rimesso tutto in ordine. Vedo. Lei sa che Io non c'entro niente, signora Grubach. È proprio quello che ho pensato, signor K. E non accadrà più, signora Grubach. È proprio quello che mi son detta, signor K. Inquieto. Che cosa, signora Grubach? Beh, che non deve succedere più. Dice davvero? Sul serio? Oh, signor K, non bisogna prendere le cose troppo sul tragico, sa? Se ne vedono tante nella vita. Devo confessarle che sono stata un po' a origliare dietro la porta. E anche i due ispettori mi hanno fatto qualche piccola confidenza. So che lei è in arresto. Già. Però mi hanno detto, non è come quando si arresta un ladro, eh? No. Quando si arresta un ladro, mi hanno detto, è una faccenda seria. Questo suo arresto, invece, fa l'effetto di una cosa... di una cosa complicata. Mi scusi se dico solo delle sciocchezze. Ma non sono affatto sciocchezze, signora Grubach. Io, signora Grubach, non gliene avrei neanche parlato, ma sono lieto di constatare che siamo perfettamente d'accordo. D'altronde non si ha mica sempre il dovere di capire. Certo, certo. E dal momento che non me ne vuole, stringiamoci la mano. Io, ecco, lei capisce, chiedo soltanto di poter tenere la casa in ordine, certe cose invece rischiano di far danno. Ho capito, signora Grubach, ora devo proprio andare. Oh, signor K, non deve prendersela male per quello che ho detto. La signorina Bürstner è in casa? A quest'ora è ancora a teatro, rientra molto tardi di solito. Vuole che le riferisca qualcosa? Volevo soltanto scusarmi con lei per averle occupato la stanza stamattina. No, con lei non è il caso. Persone di quel genere non sono molto ordinate di solito. Riceve un po' tutti in camera sua, perciò... Quello che dice è assolutamente falso. Io conosco la signorina Bürstner da molto tempo e so che lei mai e poi mai e basta, poi... Basta, basta! Non intendevo offenderla. Mi scusi, signora Grubach, ma sa, quando mi salta la mosca al naso io... Arrivederci, signora Grubach. Mi fa ridere con la sua mosca e con il suo naso. A gente come quella si dà un nome, non ricordo quale, ma c'è. Quando si può fare quello che si vuole, è segno che si è liberi. In fondo i miei pensionanti possono fare ciò che gli pare piace. Ora, se io sono libero, vuol dire che non sono in arresto. Però ci sono quelli che ne abusano e questo dà fastidio agli altri. Mi illudo di essere libero, in realtà so di essere in arresto. Però non si arresta la gente senza motivo. Nel mio caso non può trattarsi, come dice lei, di una faccenda complicata. Sono sicuro che si tratta di una cosa da nulla. Arrestano la gente non si sa perché. Non si sta alzando, lo prendono di sorpresa. È chiaro che non sia preparato. In quanto a me sono solo una modesta padrona di casa. E se si è gentili con me, ascolto un po' dietro le porte, è vero, ma è per la tranquillità degli inquilini. In banca sì che avrei saputo rispondere. Quando sono sul lavoro, tutta la mia presenza di spirito. Quegli ispettori erano gentili, poi ho fatto due chiacchiere, così. Mi hanno detto, abbiamo degli ordini noi. Sono solo degli agenti subalterni. L'importante sarebbe capire chi impartisce gli ordini. Però non è cattivo. Un po' esaltato, forse, questo sì. Ah, adesso mi ricordo. Si dice impulsivo. L'importante è mantenere la calma. L'importante è mantenere la calma. Si è potuta notare la stazione in parecchie donne. Non è soltanto un'illusione. L'accusa provoca effettivamente una sensibile modificazione del volto dell'imputato. L'importante è mantenere la calma. L'importante è mantenere la calma. L'importante calma. K si rizza. Sul letto. I passi si allontanano. Entra la signorina Bürstner stanca. K la chiama. Sembra una preghiera più che un richiamo. Signorina Bürstner! Chi è? Sono io. Il suo vicino, Josef K. Ah, è lei. Buonasera. Buonasera. Ho qualcosa da dirle. Qui, adesso. Ma non poteva dirmelo questa mattina o questo pomeriggio? Non era possibile, sa? E il fatto è che sono stanca morta. Allora, domani forse. Insomma, se non deve essere una cosa troppo lunga, vuole entrare un momento da me. Non possiamo parlare qui, svegliamo tutti. Su, avanti, si accomodi, l'ascolto. Posso? Lei ora mi dirà che non era poi così importante. Così vada, c'è... subito al sodo, detesto i preamboli e i pre... Completi la frase. Liminari? Sì, quelli. Venivo a pregarla di scusarmi se troverà la sua stanza un po' in disordine stasera. Non mi sembra affatto in disordine. Vede, sono entrate delle persone qui stamattina. Io non ho potuto impedirlo. E allora di che si scusa? Beh, in effetti non è stata per colpa mia, quanto piuttosto per causa mia. Colpa, causa. Che dice? L'ha capita! Non capisco niente di quello che dice. Si figuri io. Sì, hanno spostato il cuscino. Anche le cornici. Allora davvero degli individui sono entrati qua dentro. Certo, glielo sto dicendo. E che sono venuti a fare? Detesto che si entri qui mentre io non ci sono. Lei non avrebbe dovuto. Signorina, mi scusi. Io venivo appunto a scusarmi immediatamente. Sono desolato. Vabbè, non ha importanza. Sì, non ha importanza. Erano solo... Inventi, Kappa, inventi. Dei topolini... Dai. Degli impiegati. Sì, impiegati, impiegatucci portati qui dal commissario. Li farò licenziare. Il commissario? Ma non per lei. Quello che volevo dirle è che stamattina sono venuti ad arrestarmi. E per quale motivo? È quello che mi chiedo anch'io. Trovo molto eccitanti le faccende giudiziarie. Ah, sì? La giustizia ha un potere di seduzione straordinario, non trova? E tra qualche giorno ne saprò certamente di più, perché sto per essere assunta in uno studio di avvocato. Ma è fantastico! Allora forse potrà darmi una mano per il mio processo. E perché no? Adoro rendermi utile. Certo, la mia causa è troppo meschina per ricorrere a un avvocato, ma un piccolo consiglio non si dice mai di no. Per darle dei consigli bisognerebbe sapere di che cosa si tratta. Ovvio, ma la cosa strana è che non lo so neanch'io. Senta, signor Kappa, se voleva prendermi in giro poteva scegliere un altro momento. Gliel'ho già detto, sono stanca morta. Scusi, sa, ma io non scherzo affatto. Anzi, temo che la faccenda sia molto più seria di quanto credessi all'inizio. E mi dica, com'è andata? Turbato dalla posa di abbandono della signorina Bössner, dopo una leggera esitazione riprende. Vuole dei particolari? Permette che le sposti la cornice? Per fare che? Molto importante. Cerchi di immaginare esattamente la posizione dei personaggi. Io rappresento il brigadiere. Lei non mi conosce, signorina Bössner. Io posso sembrarle timido e spaurito, ma la faccenda di questa mattina mi ha scosso i nervi. Ma se ritrovo il morale, una volta lanciato divento terribile. Paura di niente. Ah, se mi saprò difendere, non mi farò più fregare. Kappa, torni alla pantomima. E allora il brigadiere mi chiama. Grida quasi, per farle capire devo gridare anch'io. Josef Kappa! Salvo! La signora Gruba, che dorme qui accanto. Me l'ero scordata. Perché l'ho fatto? Non era il caso di gridare, ci sento benissimo. Se ne vada, fini via. Quella sta a origliare, sente tutto. Venga da questa parte, non ci sente. Se ne vada, fini via! Non è in collera con me. Ovvio che no. Non sono mai in collera con nessuno io. Ci si può sentire liberi, credere di essere liberi e sapere che si è arrestati. Labili sforzi di pensare di chi sta scivolando nel sonno. Si tratta di riparare, di preparare per far fronte all'accusa. L'importante è prepararsi alla dichiarazione. Preparazione. Azione. Cosa ci fate voi qui? Signore, stiamo per essere bastonati perché lei ci ha denunciato. Ha detto che abbiamo preso tutta la sua biancheria. Certo, abbiamo fatto male, ma se sapesse come siamo mal pagati. D'altronde a lei non può più servirle, è in arresto. Io ho una famiglia da mantenere, Franza vorrebbe sposarsi. Ma perché ci ha denunciati? Perché ci ha denunciati? Io non ho chiesto nessuna sanzione contro di voi. Vedi, Wilhelm, te lo dicevo, il signore neppure sapeva che ci avrebbero puniti. No, io se l'ho raccontato alla signorina Bössner. E la giustizia lo ha saputo, la nostra carriera stroncata è per giunta, ci tocca subire questa terribile bastonatura. Fermo, la pagherò bene se rilascio andare. Lei non può comprarmi, io sono un impiegato della giustizia. Sono pagato per bastonare e io bastono. Buonasera, il suo numero di pratica? Ringraziandola per i suoi preziosi contributi che terremo in considerazione per il futuro, cogliamo l'occasione per porgerle cordiali saluti. Valuteremo con grande attenzione i dettagli della sua proposta per eventuali modifiche o ulteriori progetti. Resta inteso che l'applicazione del presente accordo è subordinata allo scioglimento positivo della riserva sulla presente ipotesi di accordo. Purtroppo deve chiamare il numero 800-800-800. Se da quel numero le hanno detto di chiamare noi, ci deve essere stato un errore. La invitiamo a richiamare comunque il numero 800-800-800. Signor Kappa, potrebbe dirmi dove deve recarsi domenica? Tu mi fai girare. come fossi una bambola. Scusi, conosce il falegname Lance? Poi mi butti giù, poi mi butti giù, come fossi una bambola. Scusi, conosce il falegname Lance? Ah, la parola d'ordine. Lei è qui per essere interrogato. Sì. Oggi non c'è seduta. Devo lasciar detto qualcosa da parte sua al giudice istruttore? Lei lo conosce? Naturalmente. Mio marito fa l'usciere in tribunale. Qui alloggiamo gratis. È molto conveniente. Però nei giorni di seduta dobbiamo sgomberare. E poi c'è da fare una gran pulizia. E ci sono spesso delle sedute? Sì. Ma non si può mai sapere quando, eh? Sono venuti ad arrestarla, non è vero? Già, ma non prendo la faccenda troppo sul serio. Ha torto. Si tratta di un errore, evidente. Forse no. E poi, se c'è un errore, bisogna poterlo provare. Avrò modo di difendermi. Forse posso aiutarla. Venga, si sieda vicino a me. Va bene, volentieri. Che begli occhi che ha. Grazie. Dica, è già stato interrogato? Non ancora. Perché spesso ci sono delle piccole sedute preliminari. Anche lei? Non mi è permesso assistere. Però riesco a sapere lo stesso molte cose dal giudice istruttore. È in buoni rapporti con lui? Ci tiene molto a me. E me lo dimostra. Guardi questo smalto che mi ha regalato. Non ha avuto neppure il coraggio di darmelo di persona. Me lo ha fatto portare dallo studente. Quale studente? Un suo confidente collaboratore. È sempre in giro da queste parti. E che viene a fare qui? Beh, dice che è per lavorare. Insomma, consulta dei registri e poi fa la relazione al giudice. Per questo si chiama lo studente, no? E suo marito, l'usciere, non dice niente? Ma no. Ha troppa paura di perdere il posto. E lei? Non è uno smalto bellissimo. Ma come si fa a sapere quando ci si deve presentare? Ma non lo si sa quasi mai. Per questo c'è tanta gente che aspetta. A volte dura mesi, anni. E cosa aspettano? L'occasione di poter passare. Ma lei... Senta, lei mi piace molto. E io forse dallo studente potrei sapere... Eccolo! Eccolo, studente! Non è come sembra! Fa finta di leggere, ma ci sta osservando! Posso spiegare tutto? No, continui! No! Come se non ci fosse quell'essere orrendo! Se ha premura, niente può impedirle di andarsene. Vorrei parlare con la signorina. Penso che lei avrà ancora molto da imparare. Ci lasci soli, grazie. Non bisognava lasciarlo libero. È stata una stucchezza. Cappa, tenda la mano alla donna. Venga con me! Ah no, questa donna lei non l'avrà! Ciao! Come vede, questo mostriciattolo non mi molla. E lei non vuole essere salvata? Oh no, ma cosa le viene in mente? Insomma, sarebbe la mia rovina e anche la sua. Lo lasci fare, la prego. Esegue solo l'ordine del giudice portandomi da lui. E allora andatevene via. Vaga per un po' nel salone, poi d'un tratto si ferma davanti ad un cartello. Ha visto mia moglie? Lei deve essere l'usciere. Sì. Ah, lei è l'imputato K. Benvenuto. Grazie. So tutto. Ho parlato con sua moglie poco fa. Poi lo studente l'ha portata dal giudice istruttore. Sempre me la portano via. E poi oggi è domenica e io non dovrei neanche lavorare. Ma pur di tenermi lontano da qui, mi spediscono a fare commissioni perfettamente inutili. E badano a non mandarmi troppo lontano, così posso sempre sperare di ritornare in tempo. Io mi sbrigo, faccio più in fretta che posso, grido il messaggio sulla porta così trafelato che difficilmente l'interessato ci capisce qualcosa. Torna a tutta velocità, niente. Lo studente è stato più veloce di me. Se non fossi così... Ovvio. Così... Brava persona. Così schiavo. Io lo avrei sbattuto contro il muro già da un pezzo. Io ci penso sempre. Me lo vedo davanti, spiaccicato, inchiodato, le braccia spalancate, le dita a croce, attecchito e tutto intorno spruzzi di sangue, sangue, non sangue. C'è un altro modo. E quale? Ma quale? Che adesso è pure peggio. Prima si limitava a portarla a casa sua e adesso la porta dal giudice istruttore. Ma sua moglie non ne ha nessuna colpa. Ma sì, ovvio, ovvio. Gli si è buttata con le braccia al collo. Lui corre dietro a tutte le donne. Mi scusi, ma lei non fa nulla. Io? Ma prima di tutto bisognerebbe eliminare lo studente, ma io non ne ho il diritto e qui nessuno vuole farmi questo favore, perché lui è un protetto del giudice e qui hanno tutti paura del suo potere. Ci vorrebbe uno come lei. Come me? E perché? Ma perché lei è un imputato. E proprio perché sono un imputato io dovrei avere più paura degli altri del giudice. Certo, ma vede, nessun fatto può alterare il corso dei processi che si celebrano qui da noi. Scusi, sa, ma io non ci credo. Come vuole, ora devo andare. Perché non viene con me? Io non ho niente da fare. Potrebbe visitare gli archivi, osservare quelli che aspettano. È curioso, è istruttivo. Venga. Venga. Venga. Va bene. Trattenga un istante l'usciere. Guardi qui, la sala d'aspetto. Tutti quelli che vede sono imputati. Già, dei colleghi. E che fanno qui? Aspettano. Scusi, signore, lei cosa sta aspettando qui? Ha fatto una richiesta di stanza e sta aspettando che gli rispondano. E le pare che sia utile? Ha prodotto dei documenti. Credo che il signore non abbia capito che sono imputato anch'io. Ha capito, ha capito. Lei non mi crede. Questi imputati sono diventati molto suscettibili. Volevo solo premurarmi che non fosse un sogno. Via. Che fate? Vorrei andare via ora. Non ha ancora visto tutto. Non voglio vedere tutto. Non ha mica perso la strada. Segua il corridoio fino alla porta. Mi dichi lei la strada. Io ho perso già troppo tempo con lei. Le prego, non mi abbandoni qui. Non dia troppa importanza a queste risate. Noi non usciamo mai dagli uffici. Dormiamo persino qui. Ci sono giorni in cui l'aria è quasi irrespirabile. Però alla fine ci si abitua benissimo. E quando verrà qui per la terza, quarta, quinta volta, si sente già meglio, non è vero? Vuole che apra l'abbaino? Abbaino? Lei non può stare qui. L'accompagno in infermeria. Aiutami a trasportare fuori il signore. No, no, ce la faccio. Riesco a camminare adesso. Mi riprendo subito. Sarà meglio portarlo via. Sì, fuori di qui. Anch'io sono abituato all'area degli uffici, ma qui... Avanti, in piedi, debolino. Grazie. Come si sente, signor K? Ha trovato il numero della pratica? Avrei bisogno anche di una copia fotostatica del documento su PDF interattivo. Lei è in grado di recapitarlo entro la scadenza della clausola giuridica corrente? Signor K, termini di dettare una lettera. E rimanendo a disposizione per qualunque questione di ordine tecnico o commerciale, porgiamo i nostri più cordiali saluti. Avanti. Sì, vedo che sei molto occupato, ma io devo assolutamente parlarti. Siamo tornati apposta dalla campagna. Devo parlarti a quattro occhi. Ti ruberò il minor tempo possibile. Allora, caro zio, qual buon vento? Qual buon vento? Vuota il sacco, ragazzo mio, cosa c'è di vero in questa storia? Quale storia? Caro zio, ti assicuro non ho idea di cosa stai parlando. Joseph, Joseph, mi hai sempre detto la verità. Perché non mi hai parlato prima del tuo processo? Non si tratterà mica di un processo penale. Alzando le spalle. Ebbene, sì, lo è. E te ne stai lì tranquillo con un processo penale sul gobbo? Sì. Eh no, stammi a sentire, ragazzo mio, Non è proprio il caso di starsene a fumare lì davanti alla finestra. Caro zio, più me ne sto tranquillo e meglio è. Ma non si tratta soltanto di te. Pensa ai tuoi genitori, alla tua famiglia. Insomma, sei sempre stato il nostro orgoglio, sinora non devi diventare la nostra vergogna. Zio, tu gridi troppo forte. Che brutta cosa, che brutta cosa. Cosa? Senti, Josef, insomma, io ti avevo sempre riconosciuto un intuito sicuro. E adesso mi sembri cascato dalle nuvole. Cos'è? Vuoi forse perdere il tuo processo? Lo sai? Lo capisci cosa significherebbe? Vorrebbe dire essere radiato dalla società, tu e tutta la tua famiglia! Zia! Zia! Caro zio, non è a inquietandosi che si vincono i processi. Con questo mio soggiorno in campagna, io darei l'impressione di fuggire. E la fuga in questo caso equivarrebbe a una confessione. Come riconoscersi colpevole? E tu non lo sei? Credo di no. Eppure devi saperlo. Ebbene no, non lo so. Ah, questa vuoi? Zio. Zio. Cosa dovrei fare per prima cosa? Per prima cosa? Dobbiamo andare subito a trovare l'avvocato Uld. Uld? Sì, Uld è un mio vecchio amico di scuola, lo conoscerai certo di fama, no? No. Beh, è strano. Ma io non pensavo che bisognasse rivolgersi a un avvocato per una faccenda di questo genere. Ma certo, è ovvio. Ovvio. Non ci sono per nessuno. Il signor avvocato sta male, è a letto, non può ricevere nessuno. È una nuova domestica, paura degli estranei. Vai a vedere chi è, vai a vedere chi è. Apra, siamo amici dell'avvocato. Il signor avvocato sta male. E il cuore, forse. Credo. Insomma, si può sapere chi è. Sono Albert, il tuo vecchio amico. Apra! Albert! Amico mio, sto male. Sarà il solito attacco di cuore, vedrai che ti passerà come le altre volte. No, stavolta è peggio. Faccio fatica a respirare, non dormo affatto e perdo le forze di giorno in giorno. Fai entrare. Uld, vecchio caro amico. Ah, ma allora, sei curato come si deve? C'è un'aria così triste qui. Io me la ricordavo più allegra questa casa. E anche la tua ragazzina qui mi sembra che abbia un'aria alquanto triste. A meno che non si tratti di uno scherzo. Amico mio, quando uno è ammalato come me, l'allegria serve a poco. E poi lei mi cura benissimo, è tanto cara. Signorina, ci lasci solo io un momento per cortesia adesso. Vede bene che il padrone non è in condizione di occuparsi dei suoi affari personali. Signorina, se quello che ho chiesto non fosse possibile, non l'avrei certo richiesto. Ora vada. Puoi dire tutto davanti a Leni, non c'è problema. Ma non si tratta dei miei affari, ma di quelli di mio nipote. È il procuratore Josef K, che ho il piacere di presentarti. Oh, scusi, non l'avevo neanche visto. Vai pure, figliola, lasciaci soli. Dunque, non sei venuto per far visita a un amico malato, ma per gli affari di tuo nipote. Hai già l'aria di stare meglio da quando è uscita quella giovane strega. Scommetto che sta ad origliare. È molto più in gamba di quanto non pensi. Per quanto riguarda l'affare di tuo nipote, sarei molto felice di occuparmene personalmente, certo. Certo, se le mie forze non saranno sufficienti per un compito così gravoso, ci sarà sempre tempo di ricorrere ad un collega. Ma a dire la verità, ci tengo troppo perché rinunci ad occuparmene personalmente. Certo, come no. Mi scusi, ho capito male? Pensavo si trattasse del suo processo. Naturalmente. Che cos'hai tu? Come fa a sapere di me e del mio processo? Come avvocato frequento molte persone della giustizia. Si parla sempre dei processi, quelli più importanti restano impressi, soprattutto quando è coinvolto il nipote d'un amico. Ah, davvero? Ancora, ti vedo così irrequieto. Così lei frequenta persone della giustizia? Ma certo! Avvocato, potrebbe dirmi chi è il falegname Lanz? Oh, È un affare che non ha alcuna importanza e poi non mi riguarda. Fai davvero delle domande puerili. Naturalmente adesso la mia malattia mi crea qualche problema, ma ci sono sempre dei buoni amici che vengono a trovarmi. Appartengono alla giustizia e da loro vengo a sapere tante cose interessanti. Ecco, per esempio, proprio adesso c'è qui da me una persona che ci tengo particolarmente a presentarvi. Eccola qui. Allora, prima di tutto, lasciatemi fare le presentazioni. Lui è Albert K, mio buon amico, la signora K, la moglie, e Joseph K, procuratore, e lei è la signora cancelliera. La signora cancelliera ha avuto la cortesia di venire ad intrattenermi sulle cause in corso e siccome non aspettavamo nessuno, sentendo i tuoi colpi alla porta, la signora cancelliera si è ritirata. Stavamo parlando di un caso molto interessante e adesso, se la signora cancelliera lo consente... Ma certo. Oh, benissimo. Allora approfitteremo dei suoi lumi, tanto più che il caso che stavamo studiando, glielo confessiamo, sì, glielo sì, confessiamo, sì. È il vostro! È il nostro, Joseph, hai sentito? È il nostro caso! Purtroppo dispongo soltanto di pochi minuti ormai. Altri affari mi chiamano, ma non voglio lasciarmi sfuggire l'occasione di fare la conoscenza di un amico, dell'amico, del mio amico. Tutti amici. La faccenda che vi ha condotti qui ha la caratteristica di essere molto particolare, ma al tempo stesso di carattere quasi generale, se così posso dire, poiché concerne tanto la pubblica morale quanto il comportamento priva... Molto bene. E a tal proposito mi permettevo di far notare al nostro comune amico i singolari rigidi dilatori, anche se dovrei dire ondulatori, a cui le consuete procedure giudiziarie ci hanno ormai abituato. Signor K, supponiamo per un momento che il suo processo prenda un andamento che viene seguito nel tempo... Vado a vedere cosa è stato. Oh, se ne va così? Ho fatto io questo rumore sperando che lei venisse... Volevo riparlarle. Vedo che ha fatto carriera. Anch'io volevo riparlarle, ma ho un carattere piuttosto timido. E lei mi sembra così riservata ormai. Avevo paura di non piacerle più. Oh, piacere sarebbe dire poco, signorina Bürstner. Mi chiami Leni. Vuole? Volentieri, Leni. Scambio di tenerezze. Chi la presenta? Un giudice. Un grande giudice. Ma no, è un piccolo giudice istruttore. Ah, sì? Lo conosco benissimo, viene qui spesso. Nel ritratto ha voluto sembrare immenso perché è immensamente vanitoso. I veri grandi giudici non si possono mai vedere. Ah, no? Mi rincresce di non piacerle più. Ma, Leni, come può venirle in mente una cosa simile? La carezza col rinnovato trasporto, ma pensa ad altro. Chi fa questo rumore? È Block. Il commerciante Block. E che ci sta a fare qui? Non si stupisca, aspetta. Dica, Leni, è il suo amante? Non sarà mica geloso di Block. Su, Rudy, dammi il guinzaglio. Dorme qui. Non vedo di che essere geloso. Block è un grosso cliente dell'avvocato e siccome l'avvocato spesso lo convoca nel bel mezzo della notte, lui dorme qui. In questo buco. E io mi occupo di lui quando l'avvocato non lo può ricevere. Guardi che è molto comodo. Dimenticavo il suo zappaione. Non se ne vada. Torno subito. Così, lei, signor Block, è un vecchio e fedele cliente dell'avvocato. Un vecchissimo cliente, questo sì, in quanto alla fedeltà... Che intende dire? Nulla. O se no, prometta di non tradirmi. Come può supporre no, che io... No, davvero. Oh, può parlare, mi fa tanto bene. Ecco, oltre l'avvocato Hould, ho altri 5 avvocati. 5? E sto prendendo accordi con un sesto. Ma non mi sembra una cosa poi tanto grave. Grave? Forse no, ma è proibito, soprattutto se si tratta di avvocatuccoli. Mi raccomando, non lo dica a nessuno. No, ma perché tanti avvocati? Mi servono tutti, tutti. Siccome non la pensano allo stesso modo, ognuno mi dà un consiglio differente. Lei capisce? Non voglio perdere il mio processo. Così gli dedico tutti i miei averi, tutte le mie forze, tutto il mio tempo. Pensi che ogni giorno, appena mi lasciano uscire di qui, io corro agli uffici del tribunale. E cosa ci va a fare? Nulla, atto di presenza, aspetto. E il solo fatto di stare lì seduto ad aspettare richiede già un grosso sforzo. Ma non c'è niente di meglio da fare? No, a meno di non affrettare le cose. Che vuol dire affrettare le cose? Sì, prima di essersi abituati. Ma abituati a che? ad aspettare, proprio perché desideravo affrettare le cose. Ho fatto ricorso a degli avvocatuccoli. Gli si fa più vicino. Che intende dire? L'avvocato Huld, parlando di sé e dei suoi colleghi, dice noi grandi avvocati. Ma non è vero, non sono che dei piccolissimi avvocati. I grandi, i veri grandi, non si possono mai vedere. Ma lei è proprio sicuro che loro sono davvero... Sì, questi sono superiori a quegli altri, quali a loro volta sono superiori a quegli altri ancora, di cui parlano con tanto disprezzo. Senta, ma anche se non li ha mai visti, non ha mai tentato di raggiungerli. E come? Non per molto, però. E da allora non posso fare a meno di pensare a loro. È un'idea che mi tormenta, specie la notte, nelle sale d'aspetto, nei corridoi. Come ve ne state vicini l'uno all'altro? Lui ha voluto che gli parlassi del mio processo! Non può fare a meno di pensare solo al suo processo. Anzi, forse non ci penso abbastanza. Ho sentito dire che è un bel testardo. E chi gliel'ha detto? Non mi chieda i nomi, ma si corregga di quel difetto. Non porta a nulla. Non ci sono armi contro la giustizia. È meglio confessare tutto subito. Ma confessare che? Questo riguarda lei. Solo dopo si può tentare di scamparla. È senza aiuto. Non ci si riesce. Voglio cercare di aiutarla. Davvero? Ma che sta facendo? Ma che... Ah, eccoti, ne combini proprio delle belle e noi qui poveri stupidi che cerchiamo di aiutarti, eh? Ma caro zio, io non potevo... No, non c'è caro zio che tenga, ti sei comportato come un villano, un maleducato. Insomma, se la nostra famiglia non fosse implicata in questa storia, io... Insomma, ti vai a nascondere con una sgualdrina che per colmo... Non è una sgualdrina. Sì, è una sgualdrina. No. E per colmo è chiaro che è l'amante dell'avvocato e ci pianti lì tutti quanti. Noi stiamo cercando il modo migliore di aiutarti. Insomma, devi trattare l'avvocato con maggiore attenzione e lui a sua volta deve trattare la cancelliera con ogni riguardo. No, non cercare di scusarlo! Con tutti i problemi che ha, non avrebbe dovuto come minimo starci ad ascoltare? Probabilmente hai contribuito al tracollo di un uomo che era la tua risorsa migliore. Che dirti di più? Ecco, e dirti di più, io ora devo andare. E mi raccomando, non trascurare i tuoi doveri in banca, eh? Numero di pratica? Ce l'ho qui, AK72497. Sbagliato. AK75294. Sbagliato. Osservi il suo processo. Distratto. Gli amici, Joseph, ha capito? Gli amici. Vada, Joseph, vada. Joseph, resta qui. Non andartene. Joseph, si ricordi? I grandi avvocati sono quelli che non si fanno mai vedere. Mi raccomando, Joseph, sei il nostro orgoglio. K, vorrei sapere... Lo saprà più tardi, signor vice direttore. Vorrei essere lasciato un po' tranquillo stamattina. Numero di pratica? Ce l'ho qui, AK72497. Gli amici, Joseph. AK75294. Joseph, ringraziandola per i suoi preziosi contributi che terremo in considerazione per il futuro con gli avvocati del nostro numero di pratica. Sono quelli che non ci fanno mai vedere. AK75294. Buongiorno, in che cosa possiamo esserle utile? Ringraziandola per i suoi preziosi contributi che terremo in considerazione per il futuro, cogliamo l'occasione per porgerle cordiali saluti. Si cercherà in ogni modo di essere gentili con lei e di disturbare il meno possibile la sua attività professionale. Allora resta inteso per domenica. Non avrà che da chiedere nel fare un'intervista. Sì, chieda semplicemente... Vieni, vieni un po' qui. Piccola mia, questo processo mi preoccupa. Dimmi un po', che cosa ne pensi di quel giovanotto, eh? Non lo so, non l'ho neanche guardato. Leni, non credere che io sia stupido. Oh, questi processi mi sfiniscono. Portami una tisanina, piccola mia, grazie, grazie. È naturale che l'avvocato Hulde si occupi volentieri di un processo che è appena l'inizio. Di sicuro le cose cambieranno più avanti. Non intendo certo mollare. Ma sappi almeno, signor avvocato, che al momento di tirare le somme non avrà il becco di un quattrino da me. Oh, questi giovani sprovveduti sembrano convinti di poter fare a meno dell'avvocato. Che idea che si ha della giustizia oggigiorno. Lani, porta via la tazza, per favore. Forse farei meglio a scegliere un altro avvocato, se quello scelto da mio zio non vale niente. Ogni imputato, dopo aver scelto un avvocato, deve attenersi alla scelta compiuta. E poi non ho niente da temere. Nessuna inchiesta potrà mai dimostrare nulla contro di me. O no? Cerchi dunque di fargli capire che da parte mia ci rinuncio, che ogni imputato sarà sempre ritenuto colpevole se non potrà dimostrare la propria innocenza. Lani, vai a chiamare Block. Ma come potrò dimostrare la mia innocenza se non so di che mi si accusa? Block, Block, l'avvocato. L'imputato non ha da sapere, capi d'accusa, almeno non prima della condanna. Allora non c'è modo d'uscirne, se non per via di intrallazzi, di conoscenze forse. Ah, che peccato, Yo-Yo, che peccato che lei si sia inimicato la signora cancelliera, un personaggio così influente nei confronti della quale si è comportato come un vero mascalzone. Mi scusi se interrompo il suo lavoro, che immagino tanto impegnativo. Sono io che mi scuso per averla fatta aspettare. Come si è comportato oggi, Block? È stato calmo, ha lavorato molto. Lo avevo chiuso nel suo stanzino perché non mi disturbasse. Sì, nella cuccia, come un cane. Non ha smesso di leggere gli appunti che lei le ha prestato e questo mi ha fatto una buona impressione. Ha studiato il suo caso? Solo una volta mi ha gridato che aveva sete e io gli ho portato un bicchiere d'acqua. Lei mi sta seguendo, non è vero? È mostruoso. Che cosa? Non ho ancora detto niente. No, signor vice direttore, ma me lo immagino. Vorrebbe sapere quello che ha detto il terzo giudice. Ah, quando ho cominciato a parlargli di Block, ha preso un'aria seccata. Non mi parli di Block, ha detto. È un mio cliente, ho risposto. Abusa di lei, mi fa. Non credo, faccio io. Block lavora al suo processo con molto impegno. Ma lui mi ha risposto. Block è un furbo, sa come trascinare per le lunghe il suo processo. Eppure sa bene che il suo processo non è neppure cominciato. Se crede di blandirmi con queste sue esibizioni, si sbaglia. Lei, signor procuratore, deve patire il tempo, perché oggi minaccia temporale e lei mi sembra piuttosto irritato. Sì, signor vice direttore, gravi problemi di famiglia. Beh, a ognuno la sua croce. Per tornare alla nostra faccenda... Solo un istante, la prego. Signor avvocato, data la sua malattia, vengo a dirle che la sollevo dall'incarico di assistermi. Ho capito bene? Credo di sì. Oh, ma è davvero interessante quello che mi dice. È un'idea di cui potremmo parlare. Non è più un'idea. La mia è una decisione definitiva. Un momento. Credo che il signor procuratore ci sarà certamente grato se gli daremo qualche giorno di vacanza, visto che è oberato di lavoro e sembra piuttosto stanco. Insomma, giovanotto, vede bene che non è più in condizioni di occuparsi delle sue faccende quotidiane. Questo processo è di una tale importanza da meritare il sacrificio di tutte le sue forze e tutte le sue energie. Una difesa minuziosa esige la sospensione di ogni altro lavoro. Non è tanto la mancanza di denaro ad aver causato la mia inattività, quanto piuttosto la diminuzione delle mie facoltà mentali, della mia capacità di lavoro. Signor procuratore, avrei ancora qualcosa da dirle. Ha a che fare con il suo processo. Ma lei come fa a sapere del mio processo? Ogni tanto vengo a sapere qualche notiziola riguardo la giustizia. Vede, i giudici sono straordinariamente vanitosi. Si fanno fare il ritratto da un certo pittore Titorelli. Ora, io conosco molto bene questo pittore. Potrebbe darle degli eccellenti consigli e anche intervenire presso i giudici. Sono certa che con una mia raccomandazione si farà certamente in quattro per lei. Lei crede davvero che... È un semplice consiglio. Permette? Sì, Sì, credo sia una buona idea. Buongiorno, signor K. Ha con sé il numero di pratica circoscritto al modulo già compilato? Sì, credo di averlo qui da qualche parte. A7294436. No, mi dispiace, signor K. Comunque è possibile richiedere copia di qualsiasi atto, documento, provvedimento depositato presso un ufficio giudiziario. Sì, ma quale indirizzo? E poi la domanda va inoltrata all'ufficio giudiziario presso il quale pende o si è svolto il procedimento o che ha emesso il provvedimento. Ma quale ufficio? Mi può dire? Lei, signor K, saprebbe dirmi l'estratto dell'articolo di legge secondo cui ha luogo la preclusione pro hac vice? Sta dicendo. Mi scusi, signor K, io avrei bisogno del numero di pratica per la retroattività in termini ludex peritus peritorum. Lei sa dirmelo, signor K? Ma lei mi ha detto che io posso richiederlo a un ufficio giudiziario. No, io ho bisogno del suo numero di pratica. Signor K, mi scusi un momento. Devo controllare il documento di liberazione condizionale annesso alla pratica 786, ma senza il codice della sua pratica non posso agire la sussunzione della norma dispositiva. Capito, signor Kappa? Io? Sì? No. Il signor Titorelli. Sono io per servirla. Queste birbe. Qualche anno fa ho fatto il ritratto a una di loro e da quel giorno non sono più riuscito a togliermele di torno. Dopo una giornata di lavoro sto per infilarmi sotto le lenzuola quando sento pizzicarmi ad una gamba da una di queste birichine che mi aveva aspettata nascosta sotto il letto. Ogni giorno a turno mi inventano uno scherzo nuovo. Se la giustizia non mi mettesse a disposizione questi locali gratuitamente io avrei già sloggiato da un pezzo. No, ho detto di no e adesso veniamo a noi, in cosa posso esserle utile? Io ho avuto il suo indirizzo da questo signore. Sì, è venuto per farsi fare il ritratto oppure per acquistare dei quadri? Lei sta lavorando a un quadro? Sì, è la giustizia. Devo dipingerla così? Vede, lei capisce, io seguo la mia ispirazione, ma devo pur rispettare le istruzioni. Anche qui, vede, si tratta di piccoli giudici, ma vogliono che li dipinga seduti su dei grandi troni. Non c'è dubbio che lei sia un uomo di fiducia della giustizia. Crede che non abbia capito dove vuole arrivare. Lei è venuto qui per parlarmi del suo processo, ma prima per adularmi. Si mette a parlare dei miei quadri. Confesso, non mi aspettavo una visita così immediata. Ma prego, si metta pure comodo e ora mi dica per prima cosa, lei è innocente? Sì. Detto tra noi, in tutta sincerità? Del tutto innocente. Ma allora... Se lei è innocente, la cosa è molto semplice. All'inizio la credevo anch'io, ma poi ho dovuto capire che la mia innocenza non semplifica affatto le cose. Certo, ma lei resta pur sempre innocente. Certo, non è vero? È l'essenziale. Senta, signor Titorelli, qual è la prassi da seguire? Da quello che mi dicono, tutti sono concordi nell'affermare che un'accusa non viene mai mossa con leggerezza e che la giustizia, una volta lanciata l'accusa, rimane fermamente convinta della colpevolezza dell'imputato e non c'è modo. Mi dicono di farlo recedere da questa convinzione. Dica pure che è impossibile. Se io le dipingessi qui davanti tutti i giudici in fila e lei si difendesse di fronte a questo quadro, avrebbe sicuramente maggior successo che di fronte a un tribunale vero. Ma da quello che mi dice... Capisco che la giustizia non ammette e non riconosce nessuna prova. No, nessuna prova di fronte al tribunale, è vero, ma le cose stanno diversamente per quelle prove o parvenze di prove che si presentano in via ufficiosa per mezzo di intermediari. Ma non è stupito di vedere come parlo quasi come un giurista? Effetto del mio contatto quotidiano con quei signori. Allora cosa mi consiglia di fare? Qual è la prassi da seguire? Dipende dal tipo di soluzione che preferisce. Ce ne sono di tre tipi. La soluzione vera, la soluzione apparente, il differimento illimitato. La soluzione vera pure è semplice e di gran lunga la superiore. Ma devo subito aggiungere che Non ho la minima influenza per questo tipo di assoluzione. Ma come? Come chiunque altro che io sappia. Anzi, le dirò di più. Sin dall'infanzia ho seguito un numero infinito di processi. E di assoluzione vera non mi è mai capitato di incontrarne nemmeno una. Ma non ha mai sentito parlare di assoluzioni vere magari pronunciate in altri tempi? Beh, si dice che ce ne sia stata qualcuno in passato, sì. È difficile dirlo con precisione, sa, perché le sentenze del tribunale non vengono mai pubblicate e i giudici stessi non hanno il diritto di vederle. Così, della giustizia del passato, non possediamo che delle leggende. Certe di esse sono anche molto belle. Da alcune ho tratto ispirazione per i miei quadri. Ma allora è inutile parlarne. Lei ha parlato di altre due soluzioni. Prima di andare oltre, non vuole togliersi la cravatta? Sì, sì. Allora, le altre due soluzioni? Assoluzione apparente e differimento illimitato. L'assoluzione apparente richiede uno sforzo violento ma temporaneo, mentre il differimento illimitato un piccolo sforzo cronico. Parliamo innanzitutto della prima. Dell'assoluzione apparente. Io le scrivo nella dovuta formula un attestato di innocenza. La forma di questo attestato mi è stata tramandata da mio padre, è ineccepibile. Munito di questo attestato faccio il giro di tutti i giudici che conosco perché lo firmino. Comincerò questa sera stessa col presentarlo al giudice che sto dipingendo, facendomi garante della sua innocenza. Farò in modo che mi credano. Che le creda, va bene. Ma mi negherà comunque la vera assoluzione. Certo, è ovvio. E quando sul mio attestato avrò raggiunto un numero sufficiente di firme, le cose andranno avanti abbastanza velocemente, perché vede, a questo punto della manovra non si incontrano più molti ostacoli. E anche la fase del processo in cui l'imputato mostra maggiore sicurezza di sé. Espletate le pratiche, si congeda dal tribunale, è libero. Con un sussulto. È libero! Sì. Ma solo apparentemente, è ovvio. Perché, vede, tutti questi giudici di cui le sto parlando, giudici subalterni, non hanno il diritto di pronunciare la sentenza definitiva. Questo diritto spetta soltanto al Tribunale Supremo, che non possiamo raggiungere né io, né lei e né nessun altro. Soltanto la soluzione vera elimina tutte le fasi del processo. Persino il testo non ne rimane nulla. E invece... con la soluzione apparente? Nulla va perduto e la giustizia non dimentica mai. L'atto d'accusa mantiene tutta la sua validità e qualsiasi giudice ha il diritto di porlo in essere in qualsiasi momento. E allora? E allora si procede con un nuovo arresto e bisogna di nuovo raccogliere tutte le energie in vista di un nuovo... di una nuova soluzione apparente. Ma una seconda soluzione apparente... non è più difficile da ottenere della prima. In merito a questo non si può dire nulla di certo. E comunque neanche la seconda soluzione è definitiva. Ovvio. Forse lei preferisce il differimento illimitato? Se non chiedo troppo. Il differimento illimitato, come dice il nome, mantiene indefinitamente il processo nella sua prima fase. Esige un contatto costante con la giustizia, ma, a differenza della soluzione apparente, garantisce all'imputato un futuro meno incerto. Ecco, questa proroga illimitata gli evita il terrore di una cattura improvvisa. Ma come? Già va via. Oh sì! Guardi, i due metodi hanno questo in comune, che evitano la condanna dell'imputato. Ma evitano anche la sua vera soluzione. Lei ha afferrato il nocciolo della questione. Bisogna valutare tutto scrupolosamente, ma non perda di vista che il tempo incalza. Aspetti ancora un momento, non vuole acquistare una delle mie opere? Ma sì, se ci tiene, la prendo. Ecco, guardi, ho qui pronto un paesaggio di Brughiera. Va bene, prendo anche quella. E ce n'è qui pronto un altro dello stesso genere. D'accordo, guarda. Prendo anche questo, mi dica quanto fa. Ah, non si preoccupi, ne riparleremo più tardi. E non si stupisca uscendo di qui di imbattersi nei locali della giustizia. Anche il mio ufficio ne fa parte. Ciò pregiudica notevolmente il mio estro creativo, è vero, ma presenta innumerosi vantaggi. Titorelli. Può dirmi chi è il falegname Lanz? Il falegname Lanz. Il falegname Lanz non esiste. Il falegname Lanz è una parola d'ordine. Il signore qui si informa sul falegname Lanz. Il falegname Lanz. fate più entrare nessuno. Già, è quello che si dice un processo a porte chiuse. Oh. Kappa, lei non è più in condizioni normali. Ho pensato che, dato questo suo affaticamento, lei mi sarà certamente grato se assumessi io definitivamente tutti i suoi incarichi. Signor vice direttore, lei ha una gran premura di prendere il mio posto ovunque. I miei incarichi me li tengo io. Bravo! Signorina Burstner, anche lei qui. Sa bene che non potevo mancare. È così emozionante. Silenzio! Joseph Kapp, è già più di un'ora che l'aspettiamo. E come potevo saperlo? Io non sono stato con voi. A noi poco importa. Resta il fatto che lei è in ritardo di più di un'ora. Beh, ora sono qui. Già, ma adesso non siamo più tenuti ad ascoltarla. Ma in via eccezionale l'ascolteremo lo stesso. Un momento, non siamo ancora pronti. No, non ve ne andate. Ah no, questo no e poi no. Non voglio, a nessun costo. Avevo già detto che volevo rompere. Non con me, Joseph. Ma no, con lui, con l'avvocato. Ne ho abbastanza, basta. Licenzia il suo avvocato. Doc, stai zitto. Credo che a indurla a questo grave errore di valutazione siano stati gli eccessivi riguardi che si sono usati fin qui nei suoi confronti. Se sapesse in che modo vengono trattati di solito gli altri imputati, si sarebbe comportato altrimenti. Block, vieni qui. Per servirla. No, capiti in un brutto momento, Block. Non mi ha chiamato lei? Ciò non toglie che arrivi sempre in un brutto momento, Block. Vuole che me ne vada? Dal momento che sei qui, puoi restare. Chi è il tuo avvocato, Block? E lei lo sa bene. E oltre a me, Nessuno. Bravo, Block, e non avrai altro legale al di fuori di me. Bravo, inginocchiati. Cammina a quattro zampe, striscia. Lei non ha il diritto di parlarmi così. Intanto col suo processo fresco non è certo migliore di me. Si sbaglia se si crede più signore soltanto perché se ne sta in piedi, mentre io, per usare la sua espressione, cammino a quattro zampe. Signor avvocato, l'ha sentito? Si possono contare i giorni, le ore del suo processo, e pretende di insultare me, che è un processo vecchio ormai di 5 anni. Signor avvocato, ne ho abbastanza di questo spettacolo. Saprò difendermi da solo. Signori, la corte. Oh, finalmente! Non è il tuo processo, è il mio. Ma io aspetto da 5 anni. E allora tornatene a cuccia per altri 5. A cuccia! Joseph, sta calmo. Pensa alla famiglia. Joseph Kappa. Sono io, signor giudice. Lei fa di mestiere l'imbianchino. Ma no, scusi, signor giudice, c'è un errore. Lo sapevo che c'era un errore. Io non faccio l'imbianchino. Io sono procuratore presso un'importante banca. Ah. Lo sapevo. Ma questo non ha alcuna rilevanza. Silenzio. Silenzio, in questo caso chiedo ancora qualche minuto. No. Qual è il codice della sua pratica? Voi mi state facendo un processo e lei ha la faccia tosta di chiedermi il codice della pratica. Oddio, quanto è bello. Questa è una mania di Leni, si innamora di tutti gli imputati, persino blocca ai primi tempi. Ho potuto notare questa attrazione in numerose donne. Non si tratta soltanto di un'illusione. Effettivamente il processo causa nell'imputato una lieve modificazione nel volto. Silenzio! Silenzio! Imputato, a lei la parola. Lei prima mi ha chiesto, signor giudice, se facevo l'imbianchino. Per essere più esatto, non me lo ha chiesto, me lo ha detto, così, come una grande verità. Ciò è caratteristico del modo in cui l'intero processo è stato condotto contro di me. Ma perché proprio contro di me? Potete dirmelo. Senza dubbio il mio nome è capitato su quel registro, ma chi lo ha scritto e perché? Lei stesso forse non ne sa nulla, lei obbedisce agli ordini. E quel nome, che per caso è il mio, avrebbe potuto essere il nome di un altro. Di un imbianchino, per esempio, innocente quanto me. Certo non uno dei vostri. Perché voi, signori, per essere ben sicuri di non essere incolpati, avete avuto cura di mettervi nella schiera degli accusatori. Dunque, io sono in arresto. Non posso provare la mia innocenza, perché non so di che mi si accusa. E sono considerato colpevole finché non provo la mia innocenza. Vedete bene che non c'è modo di uscirne. Signori, silenzio! Silenzio! Lasciate parlare l'imputato. Dietro tutte le manifestazioni della vostra assurda giustizia, sento la rete di una vasta organizzazione che vi comprende tutti. Tutti radunati qui in agguato per spiarmi. Se poco fa avete applaudito è perché speravate di far cadere un innocente. Non vi darò questa soddisfazione. Allora? Ve ne state zitti adesso? Insomma, chi siete? Cosa fate voi qui? Che significa questa farsa di giustizia? Vi reggete? Legati, aggrappati gli uni agli altri. E benché voi non siate in arresto, io vi sento, io vi so, meno liberi di me. È vero ciò che dico? Rispondete. Rispondete. Rispondete. Avete cinto di un muro affinché non esca più. Fratelli cari, occorre considerare che queste parole del profeta, queste parole di disperazione, sono seguite subito dopo da parole di conforto. Ed è su queste ultime, fratelli cari, che mediteremo insieme. Nessuno ascolta? Io l'ascolto, madre. Vox clamantis in deserto. Io l'ascolto, madre. Sei tu, Joseph K? Sì. Tu sei accusato? Sì. Allora, sei quello che cerco. Ti ho fatto venire qui per parlarti. Io sono venuto qui per la banca. Lascia andare le cose secondarie. Lo sai che il tuo processo va male? Mi sono dato molto da fare, ma a quanto pare senza grandi risultati. Come credi che andrà a finire? Non lo so. Considerano certa la tua colpa. Io non sono colpevole, a meno che non lo siano tutti gli uomini. La giustizia commette un errore. È assai penoso, amico mio, udirti pronunciare parole così gravi. L'orgoglio te l'è detta. E piuttosto di riconoscere la tua colpa, preferisci ritorcere contro la giustizia quell'accusa che nel fondo di te stesso devi sentire meritata. In tal modo aggiungi alla tua prima colpa una seconda ancor più grave. Dai per scontata la tua innocenza. E di conseguenza accusi l'accusatore al fine di discolpare te stesso. Insomma, di che mi si accusa? Cercate e troverete. La prova della tua colpa non è forse nel castigo? Riconosci il tuo errore, convinciti di questo. Mi castigano, dunque sono colpevole. Sei anche tu prevenuta contro di me. Anch'io appartengo alla giustizia. Io sono la sentinella e mi si affida la guardia di una porta

come per secoli si era ritenuto qualcosa di assolutamente inutile, farsesco, una specie di grande messa in scena grottesca nella quale noi mettiamo in scena delle immagini senza alcun senso, senza alcun significato. No, Freud ti racconta come invece quella messa in scena è come se ce l'ha un significato. È una messa in scena coperta, nascosta, ma che esiste un metodo per analizzare. Alla fine la grande serietà dei sogni è la grande lezione di Freud e anche la cosa secondo me più commovente, più emozionante di questo lavoro. L'interpretazione dei sogni è fondamentalmente un grande testo che si può racchiudere in un imperativo, ecco, in un consiglio che Freud dà a ciascuno di noi, ed è: prova a guardarti dentro, non passare oltre, non aver paura, ascolta la tua voce interiore che ti sta evidentemente dicendo delle cose, tenta di dirti delle cose. Non c'è niente di casuale nel mondo della cosiddetta natura, e noi che della natura facciamo parte abbiamo quindi un meccanismo interiore che è altamente necessario. In che cosa consiste questa necessità? Che cosa ti stai dicendo di notte in sogno? Questa è la grande domanda di Freud ed è la domanda che sostiene, regge e dà un senso a tutto questo spettacolo. Lo spettacolo L'interpretazione dei sogni a Roma al Teatro Argentina dal 5 al 21 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento all'autore e interprete Stefano Massini. A presto. Grazie Federico e grazie a tutti voi. Con Alessandra Ferraro della compagnia Margine Operativo per presentare la 7ª edizione di Ai Confini dell'Arte a Roma dal 4 al 6 dicembre 2023. Ben trovata. Grazie, buongiorno. Raccontiamo cos'è. Quest'anno, in questa nuova edizione, ha come sottotitolo Sconfinamenti performativi, è dedicato completamente alle arti sceniche del contemporaneo e si sviluppa attraversando quattro luoghi della metropoli e quindi si dissemina in più spazi. E all'interno del suo programma propone quattro laboratori gratuiti e tre giornate di eventi artistici multi cross disciplinari e una residenza artistica. Anche quest'anno il progetto Ai Confini dell'Arte è dedicato molto alla processualità artistica e si concentra, come dicevamo prima, su questo concetto dello sconfinamento e sul concetto plurale confini e sconfinamenti, dove il confine è un po' visto come anche non solo come un segno che divide, ma anche come una possibilità, una linea in comune, e uno sconfinare come un processo di incontro e il possibile confronto anche. Partiamo dal 4 dicembre con una residenza artistica che coinvolge noi come compagnia Martino Operativo più altri artisti per la costruzione di una nuova performance, di un nuovo spettacolo che sono le di marzo, che verranno presentate all'interno degli eventi artistici. Un po' tutti i laboratori che precedono le tre giornate di eventi artistici che si sviluppano il 14, il 15 e il 16 dicembre a Fortezza Est, nel quartiere di Torquignattara, tutti i laboratori appunto poi presenteranno anche degli esti scenici, dei lavori all'interno di queste giornate, nel senso che un po' è questo anche lo spirito, il filo rosso di Ai Confini dell'Arte in tutta questa edizione, quello proprio di lavorare anche sulla costruzione di opere aperte, quindi insieme ai partecipanti del laboratorio costruire poi degli esti scenici che non è qualcosa di totalmente definito, però hanno la voglia di confrontarsi con un pubblico. I quattro laboratori che sono gratuiti, questo ci tengo a sottolineare un po', pensiamo che è importante che ci sono proposte di formazione gratuita, soprattutto in questo momento. C'è un laboratorio di danza che è Bermudas Lab, condotto da Biagio Caravano, la compagnia MTAPPA, un laboratorio di canto corale, Polifonie Urbane, condotto dal musicista e compositore Francesco Lineri, un laboratorio di videomapping e scenografie digitali, Ai Confini della Luce, il titolo, condotto da Gianluca Del Gobbo del collettivo Flexer, e un laboratorio radio dedicato un po' agli sconfinamenti tra radio e performance art, che si chiama Universi Sonori, curato da Radio Beat, della web radio che è nata all'interno del Centro Giovanile Battito Tempo Evolution, che è uno degli spazi che coinvolgiamo in questo percorso. I laboratori si sviluppano tra Fortezza Est, la Biblioteca Interculturale Cittadina del Mondo e il Centro Giovanile Battito Tempo, e il laboratorio video mapping tapping si sviluppa al parco di Torre del Fiscale, utilizzando anche il casale di Torre del Fiscale, quindi anche al chiuso, e per poter sperimentare il video mapping anche sulle architetture degli acquedotto romano che si trovano al parco di Torre del Fiscale. È un po' un processo che si apre adesso anche in vista per quello che succederà a giugno, che è il festival attraversamenti multi, quindi chiaramente tutti questi progetti, ognuno è diverso, ma vanno anche un po' a intrecciarsi in un lavoro sulle performance alto e contemporaneo che facciamo sia attraverso i nostri spettacoli come margine operativo, sia attraverso questi progetti che curiamo. E poi stavo dicendo, sono queste tre giornate di eventi artistici, il 14, il 15 e il 16, anche questo è ingresso gratuito, a Fortezza Est, e all'interno di queste giornate presentiamo gli esiti scenici costruiti all'interno dei laboratori, come stavo dicendo, e tutto questo si intreccia con una serie di altri spettacoli di artisti, di compagnie, tra cui per esempio il sabato del 16 dicembre ospitiamo Roberto Latini con un lavoro a cui teniamo molto, che è La delicatezza del fuoco del niente, lavoro sulle poesie di Mariangela Gualtieri, molto poetico per chi non l'ha ancora visto e assaporato, e la compagnia Casa d'Argilla propone per tutti i tre giorni, 14, 15 e 16, un percorso sonoro in audio paesaggio che si nota da Fortezza Est nello spazio limitrofo, nelle strade limitrofe, si chiama Città Sola, variazione 4, ricordi che puzza di benzina. Noi, Margio Operativo, presentiamo il 15 dicembre lo spettacolo Certo Io Resisterò, ispirato e tratto dalle lettere al carcere di Gramsci, e abbiamo poi una serie di altri incontri, talk, presentazioni di libri, tra cui Lo spettatore, un visionario, un libro scritto da Luca Ricci e Lucia Franchi, che si occupano della direzione artistica di Kilowatt Festival, sono parte della compagnia Capotrave, hanno scritto questo libro, dinamiche di partecipazione del pubblico, come creare delle dinamiche di partecipazione. È un programma abbastanza articolato e vi invitiamo, per chi è interessato, ad andare sul nostro sito, il sito dedicato al progetto Margine Operativo / Ecofi dell'Arte. Per chi è interessato anche ai laboratori, ci sono pochissimi posti ancora disponibili, ci scrivete, c'è una mail di riferimento che è lab@marginoperativo.net. Settima edizione di Ai confini dell'arte, sconfinamenti performativi a Roma dal 4 al 16 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandra Ferraro della compagnia Margine Operativo. A presto! Grazie a voi, ciao, vi aspettiamo. Con Lara De Angelis di Blue Cheese Project per presentare Rione Roma Performing Tour nel Municipio 1 dal 1 al 10 dicembre 2023. Ben trovata. Grazie, sono contenta di essere con voi. Di cosa si tratta? Cos'è? È un progetto che per noi è un evento innovativo. Abbiamo da tanti anni un festival, Rione Roma Tour Festival, e con questo performing tour abbiamo voluto declinare il concetto di tour in maniera differente, quindi a tracciare i percorsi. In questo caso non saranno guide turistiche, ma saranno gli artisti e le loro pratiche. Quindi avremo dei tour appunto allargati concettualmente, perché saranno delle passeggiate sonore con delle audioguide, o saranno delle azioni collettive coreografiche. Abbiamo tanti appuntamenti, in tutto sono 14, tutti diversi uno dall'altro e appunto attraverso una sfumatura diversa delle arti. Abbiamo 14 performing tour appunto, ma abbiamo anche un talk per parlare di rigenerazione urbana, che è esattamente la finalità di tutta la nostra progettualità, quindi quella di interagire con il contesto, il territorio che ci accoglie, e insieme cittadini creare un percorso creativo di formazione e di crescita. Quindi faremo un talk anche su questo, invitando tanti operatori culturali e confrontandoci su questa tematica che è diventata centrale nelle attività culturali di Roma e non solo, ovviamente. E poi, oltre al talk, ci saranno delle produzioni digitali che iniziano quest'anno e diventeranno il prossimo anno dei nuovi tour performativi. Quindi quest'anno, sempre attraverso delle indagini di territorio, abbiamo degli storyteller digitali che si occuperanno di creare dei prodotti che diventeranno delle guide sonore per il performing tour del prossimo anno. Com'è stata la scelta artistica? è stata fatta attraverso la ricerca di chi come noi condividesse questa volontà di creare delle azioni di arte partecipativa. Quindi siamo andati un po' alla ricerca di tanti artisti che fanno uno studio e delle azioni già da tempo su questa tematica. Infatti avremo ad esempio da Trento, prima qui in residenza artistica e poi con dei laboratori e con anche la loro performance oltrepassare, questo duo che si chiama Azione Fuori Posto di coreografi da Trento, e loro appunto creeranno attraverso diverse giornate con laboratori eccetera delle azioni con i cittadini di studio del corpo nello spazio urbano. Altra artista di cui siamo orgogliosi della partecipazione è la Sandra Ninja, una ballerina queer francese che è in residenza quest'anno all'Accademia di Francia, che crea questa azione collettiva di Vogue, il voguing, che è una danza che ha un ruolo importante per la comunità LGBTQ nera, e con questa lei coinvolgerà tutto il pubblico. Avremo delle cuffie silent disco e tutti insieme daremo vita in questa bellissima piazza, questa azione collettiva, e l'abbiamo scelta proprio perché appunto fa anche lei questa ricerca di relazionarsi con gli altri e trasmettere dei contenuti però agendo e divertendosi insieme. E altra artista che voglio segnalare, cioè ce ne sono tante, ma è Valentina Mezza, che è un'artista sarda che porta il suo progetto per la prima volta a Roma. Il suo progetto è City by Night, che è vincitore dell'ultima edizione del Perform Europe, e lo porta per la prima volta a Roma, e lei ha costruito questi percorsi con 12 cittadine. Le abbiamo selezionate con una call e adesso insieme a Valentina Mezza stanno costruendo dei loro percorsi che sono delle esplorazioni dello spazio urbano che indaghi la loro percezione del pericolo. Quindi ognuna di loro creerà un proprio percorso, saranno 12 percorsi diversi creato da ciascuna di loro, che non saranno soltanto quindi dei percorsi geografici ma anche fisici, emotivi e politici. E questa anche insomma è un esempio forte di arte partecipativa, che è lo spirito proprio di questo nostro performing tour. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? La partecipazione a tutto quello che avete sentito è gratuita, ma bisogna prenotarsi su www.rioneroma.it. Iniziamo con gli eventi il 6 dicembre e finiamo il 10. Rione Roma Performing Tour nel Municipio 1 dal 1 al 10 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Lara De Angelis di Blue Cheese Project. A presto! Grazie a voi, buongiorno. Con Gianluca Del Gobbo, direttore della settima edizione di Fotonica, a Roma dal 1 al 10 dicembre 2023, ben trovato. Grazie, ben trovati anche a voi e grazie per l'invito. Di cosa si tratta? Fotonica, dalla parola un po' fotone, quindi luce, è un festival che rispetto a quello che facciamo noi di solito, che di arti visive contemporanee, quindi soprattutto video in tempo reale, performance audio video, si apre un po' all'elemento luce, che ultimamente è sempre più presente anche negli spettacoli dal vivo, che erano usi utilizzare soprattutto il video, e quindi abbiamo voluto creare questo festival da 7 anni, ma rispetto ai nostri progetti è il più giovane, che si apre a questo elemento luce, e quindi le attività sono molteplici. Qui a Roma, tra Acquario Romano, con un opening al cielo terra, la mostra all'Accademia d'Ungheria. Quanti sono gli eventi in programma? Tanti. Oltre a questi 3 spazi abbiamo anche un'attività didattica, un piccolo workshop di 2 giorni, una residenza artistica invece molto lunga di 5 giorni, intensissima dalla mattina alla sera, e anche un workshop per bambini domenica 3 al Fusolab. E oltre a queste attività satellite, il cuore si apre con l'opening all'Accademia d'Ungheria venerdì 1 nel pomeriggio dalle 5, e poi ci spostiamo al cielo terra, dove abbiamo le prime performance audio-video dalle 9. Tutto questo poi si ripete la settimana dopo come tipologia di programma, e quindi performance audio-video serali. La mostra all'Accademia d'Ungheria va avanti tutto il periodo, quindi dall'1 al 10. E invece le performance audio-video ripartono nel secondo fine settimana, quindi 8, 9 e 10 all'Acquario Romano, dove abbiamo tre performance audio-video per ogni serata. E come se non bastasse, mapping sulla facciata dell'Acquario Romano, che è una struttura molto bella. Poi il programma dettagliato è sul nostro sito internet, fotonicafestival.com. Com'è stata la scelta artistica? Quest'anno è stata particolare, lo rivela la scelta dell'Accademia d'Ungheria. Io sono stato invitato a essere uno dei curatori del Light Art Museum di Budapest, e quindi il mio coinvolgimento con loro mi ha portato a scoprire opere interessanti sia del passato, perché abbiamo artisti anche che non ci sono più, che fanno parte del movimento degli anni 70, e poi, se volete, spendo due parole, a artisti contemporanei ungheresi, e quindi c'è una forte presenza di artisti ungheresi che in questo settore sono stati dei precursori. E poi nell'ambito performativo abbiamo fatto una selezione del meglio che siamo riusciti a trovare, quindi abbiamo Murkoff, Gabor Lazar e tanti altri. Ecco, spendiamo due parole sugli artisti del passato, che dicevi degli anni 70. Partirei forse da Viktor Vasarely, è stato un precursore, lo chiamano il grandfather della pop art. Ritroviamo nelle sue opere anche grafiche e idee che vediamo poi magari in performance di video contemporanee. È nato a Beach, che è una città che ospita un festival di luci molto importante. Parliamo di una persona che è nata nel 1906, vissuta fino al 1997. Essere poi il fondatore della pop art, la caratteristica che lo caratterizza di più, al museo di Budapest, appunto, dove dicevo ho curato alcune opere. Queste opere, in particolare delle opere su plexiglass, vengono ancora più sottolineate dalla presenza dell'elemento luce, che trasforma queste opere anche in ombre. Era una tecnica che, appunto, prima del video veniva utilizzata anche da Monolinacci e altri artisti della scuola ungherese. Questo anni prima il proiettore ancora era lontano, c'era sicuramente la nascita del cinema, ma l'utilizzo della luce per creare un'opera artistica, insomma, è stato veramente un precursore. Cubismo, futurismo, un po', insomma, tutto quello che c'è stato in quel periodo sicuramente lo ritroviamo nelle sue opere. Settima edizione di Fotonica a Roma dal 1 al 10 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore Gianluca Del Gobbo. A presto! Grazie a voi dell'ospitalità. A presto e spero di incontrarvi a questa edizione speciale di Fotonica. A presto, grazie mille. Con Ange Sierakowski, direttore artistico e musicista, per presentare la 12ª edizione dell'Enrichetta Festival a Roma dal 7 all'11 dicembre 2023. Ben trovato. Ciao, ciao Federico. Come lo presenteresti a chi non lo conoscesse? L'Enrichetta Festival è un appuntamento che è nato dall'iniziativa di giovani musicisti romani che vivevano a Roma, alcuni di loro erano stranieri ma vivevano, sono cresciuti a Roma, con la passione della musica tradizionale, per quello che rappresenta come patrimonio comune, ma anche quello che rappresenta come capacità di farsi sentire vicini a culture diverse, farsi ballare insieme e farsi trasportare da questa musica che ha risuonato nella storia e che continua a esistere in molte regioni del mondo. E quindi questo festival è venuto proprio dall'iniziativa di musicisti che erano appassionati di questa musica e che volevano condividerla col pubblico romano, perché è una musica che spesso non si ha l'occasione di sentire magari in situazioni più mainstream o in una città come Roma, che non vede tanta musica tradizionale, tanta musica del mondo essere programmata, ecco. Come si caratterizza l'edizione di quest'anno? con una certa attenzione al repertorio vocale, al repertorio corale, con tre gruppi che vanno un po' a definire, a caratterizzare la programmazione di quest'anno. Un gruppo sono delle voci bulgare di un'accademia che si chiama l'Accademia di Široka Laka, che è un'accademia nazionale in Bulgaria, che ha come scopo quello di trasmettere la cultura polifonica che magari noi conosciamo sotto la forma delle voci bulgare a delle giovani donne tra i 14 e i 20 anni che si esibiranno venerdì 8 dicembre al Teatro Italia, e diciamo che è uno dei capitoli del repertorio corale e polifonico del festival. Un altro sarà uno spettacolo del gruppo Anutis, che è composto anche da donne che fanno polifonia e che hanno deciso di, ripartendo dalla polifonia tradizionale italiana e in particolare dal canto del Friuli, hanno deciso di comporre la loro musica con dei testi e della musica di Giovanna Marini come una cantata omaggio a Pierpaolo Pasolini. E poi ci sarà sia nel concerto della domenica, che è un concerto che sarà fuori Roma nella chiesa di Rio Freddo, sia in chiusura del Festival del Teatro Italia il sabato, ci saranno i Tenore di Orosei, Antoni Miglia, che è un gruppo di quattro cantanti fantastici di musica tradizionale della Sardegna. E intorno a questo poi si articola una programmazione che vede della musica che forse il pubblico del Ricchetta Festival o chi è venuto negli anni precedenti può conoscere un po' meglio, che è la musica balcanica, la musica della Grecia, ma andiamo anche fino all'Iran e con la musica della Persia. Quanti sono nel complesso gli appuntamenti? Inizia giovedì 7 dicembre, quindi giovedì, venerdì e sabato ci sono tre appuntamenti al Teatro Italia, e ogni serata è una serata unica con tre concerti, cioè con il biglietto è possibile sentire tre concerti diversi che si articolano in una sola serata. Quindi la prima serata inizia con Salvatore Morra e Marzouk Merji, che sono musicisti che suonano musica dal Marocco e dal Maghreb. Poi ci sarà gruppo Anutis con la cantata per Pasolini, e a finire un gruppo romano ma con delle influenze africane folcloristiche delle Americhe, che è il gruppo di Edoardo Pedretti, che si chiama Visionary Aquaba Ensemble. Venerdì 8 c'è quindi in apertura questo grande progetto molto bello del Toranchfest Special Project, che viene dall'Iran con dei musicisti che vengono apposta dall'Iran intorno alla musica strumentale della Persia, poi questo coro femminile della Bulgaria, e a finire un progetto molto bello soprattutto nel clima attuale, che è un progetto che unisce musicisti dal Libano e musicisti romani con Federico Pascucci e Sama Bulmona intorno alla musica del Libano. E sabato 9 dicembre, sempre al Teatro Italia, abbiamo quindi i Tenore della Sardegna, che sono questi canti polifonici, un momento dedicato con il suonatore di al tambur Evgenios Vulgaris alle danze greche, al repertorio del Rebetico, questo repertorio un po' sovversivo prima del dopoguerra della regione del Pireo, e a chiusura il gruppo Erichetto Underground, di cui faccio parte, di cui fanno parte gli organizzatori, che è un gruppo di musica balcanica, e invitiamo il pubblico a venire a ballare e a chiudere il festival con noi. E così si chiudono le tre prime serate al Teatro Italia, e poi ci sono una giornata domenica 10 dicembre che sarà una giornata fuori porta a Rio Freddo alla chiesa di San Nicola, con un gruppo di musica tradizionale della Corsica che fanno sia un lavoro sulla musica classica e barocca sia sulla musica tradizionale, e di nuovo i Tenori della Sardegna, e a chiusura un concerto gratuito dell'ensemble Camerata Figarella, che fa musica tradizionale della Corsica, che viene dalla Corsica, alla Basilica di San Crisogono, che poi anche tradizionalmente la Basilica dei Corsi a Trastevere. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? etichettafestival.com, potete anche seguire la pagina Instagram o la pagina Facebook. Poi c'è una biglietteria online su Dice, il biglietto sono 12 euro per la serata, quindi 12 euro per tre concerti, e poi è possibilità di avere un abbonamento per le tre serate al Teatro d'Italia. Invece i due concerti in chiesa direi sono gratuiti. 12esima edizione dell'Enrichetta Festival a Roma dal 7 all'11 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico e musicista Ange Sierakowski. A presto! A presto, grazie mille! È il momento dell'agenda per quanto riguarda gli appuntamenti della settimana relativi al teatro e agli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone! Ciao a tutti, buon pomeriggio, e beh, insomma, partiamo come sempre dal nostro Teatro Tor Bella Monaca, perché questa settimana, nonostante appunto si preannunci una settimana fredda, andiamo per mare aperto in tutti e due i casi, perché ci sono un paio di spettacoli che andremo a ricordare, tutte e due in qualche modo hanno un tema oceanico, perché da questa sera fino al 10 dicembre, fino a domenica, ci sarà lo spettacolo ormai classico, insomma, un classico contemporaneo, il piccolo testo di Alessandro Baricco, che si chiama Novecento, e con la regia di Chiara Bonome e Stefano Messina, appunto dal Teatro Vittoria, appunto Stefano Messina rimanda facilmente al teatro Vittoria. E lo stesso Messina, sul palco, sono il monologo, ci sono anche scena le musiche di Pino Cangelosi, la storia di Danny Burman, più di Lemon 900, il più grande pianista sull'oceano, cioè quel che non è mai sceso dall'oceano, precisamente dal Virginia, dalla nave sorta all'oceano, che non l'ha mai portato a terra. Questo del 5-10 dicembre al Teatro Torbella Monaca, ma durante la settimana, dal giovedì a sabato, 3 giorni per andare nello stesso oceano a scorgere, magari chissà, dal punto, dalla prua del Virginian, lontanamente andare a scorgere la schiena della balena Moby Dick da Herman Melville, l'adattamento è di Roberto Negri e la regia di Federico Vigorito. Roberto Negri è anche in scena, si tratta quindi di un impianto scenico per attore solo, il racconto è quello che conosciamo da Herman Melville, la ricerca della balena bianca Moby Dick, 7-9 di dicembre al Teatro Torbella Monaca. E poi ora ci spostiamo perché intanto una cosa mi piace ricordare, che insomma fa sempre abbastanza sensazione e comodo, che la giuria del premio tuttoteatro.com alle arti sceniche Dante Cappelletti, che non è quello di cui stiamo parlando in realtà, che ancora deve svolgersi la finale, ma il premio tuttoteatro Renato Nicolini ha premiato quest'anno come personaggio maestro Massimiliano Civica, ma soprattutto quello che mi fa piacere ricordare maggiormente, non se ne abbia Civica, ha premiato Spin Time, ovvero sia un progetto di recupero abitativo che è casa di numerose attività culturali a Roma, insomma unico probabilmente, ma tra pochi ormai, in una città che ha perso un po' di spirito aggregativo comunitario, sta cercando di fare un lavoro anche e soprattutto in relazione alle arti. Quindi, lo ricordiamo chiaramente, abbiamo visto lì il primo festival di teatro Rom, e insomma ce n'è da poter raccontare per Spin Time, che giustamente si prende questo premio che ha il nome del grande Renato Nicolini, e sicuramente saranno molto, molto contenti. Procedo oltre perché andiamo anche all'Auditorium Parco della Musica 8-9 dicembre per il signor Puntila, il suo servo Matti, Massimo Venturiello, porta questo spettacolo di cui interpreti insieme a Biagio Musella, con appunto testo, cioè, classico, canonico, Bertolt Brecht, che mette in evidenza il trasformismo del potere e tutte le riflessioni che chiaramente hanno molto a che vedere con il nostro contemporaneo. Questo per quanto riguarda l'Auditorium Parco della Musica, ma andiamo ancora avanti e andiamo a parlare di Trend, la nuova frontiera della scena britannica curata da Rodolfo Di Gianmarco, questa settimana, ancora in realtà oggi e domani, per vedere Island Town di Simon Longman, con la regia di Martina Glenda, in scena 3 attori, segnalo Giulia Chiaromonte, Giuseppe Brunetti e Chiara Stella Sorrentino, che molto ci è piaciuta in alcuni spettacoli visti di recente. Siamo in una piccola città che sembra un'isola tra i campi, nei sogni dei piccoli giovani protagonisti non interessa a nessuno, perché probabilmente non c'è molto da fare in quella città. Island Town è una storia di amicizia che in qualche modo entra in relazione con ciò che vuol dire stare all'interno di una città e guardare l'interezza della città a partire dalla periferia. Questo fino al 6 dicembre, cioè fino a domani, al Teatro Belli per Trend. Procedo ancora oltre per segnalare questo spettacolo, questa trilogia firmata da Stefano Napoli, l'ultimo spettacolo della trilogia firmata da Stefano Napoli, la terza Dark Queen, dopo Cleopatra ed Elena di Troia, questa è l'occasione per vedere Vanity Dark Queen Niobe, regina di Tebe, ancora da stasera fino al 7 dicembre al Teatro Hamlet, che ricordo si trova al Pigneto. E poi invece, per quanto riguarda il teatro Altrove, anzi Altrove Teatro Studio, ma bisogna mettere diversamente i fattori, dall'8 al 10 dicembre presenterà gli altri di Jean-Claude Grunberg con la regia di Stefano Viali. Gli altri siamo noi o loro? Potrebbe succedere a me, a te, oggi o domani. Ecco, il relativismo legato all'umanità, quando gli altri siamo noi e noi siamo gli altri di qualcun altro, andremo a vedere con questo spettacolo firmato appunto da Stefano Viali sulla drammaturgia di Jean-Claude Grunberg dall'8 al 10 dicembre, altrove, Teatro Studio. Poi, questa è la settimana in cui comincia, cioè tardi, 10, ma insomma ve ne parleremo anche oltre. Noi abbiamo insomma questo giusto l'apertura, perché 10 già domenica, ma poi settimana prossima ne parleremo di più. Roberta Nicolai dirige l'ennesima edizione del festival, la 17ª precisamente, Teatri di Vetro, che giunge alla tappa finale del progetto pluriennale che quest'anno ha il nome Oscillazioni, e si propone già in questi di aprire dal Teatro del Lido di Ostia con Krangon e Daria Greco, che mettono in scena la performance urbana attraverso una serie di istruzioni in cuffia, una personale ricerca sull'antiabitudine, e seguirà poi Erika Bravini con Michael in Carbone, Fallen Angels, sempre insomma siamo nell'ambito della danza e della performance. Andremo a vedere anche il 10 dicembre la compagnia Bartolini Baronio con La Voce Umana, la traccia 1, Ascolta come mi batte forte il cuore, ascolto l'incontro tra le voci di alcuni adolescenti liceali di Ostia e le domande, le riflessioni nate attorno al laboratorio del teatro comunitario di Asindas con italiani, rifugiati, richiedenti asilo, che insomma sono stati interpellati e coinvolti in questo bel progetto. Quindi cominciamo con Teatri di Vetro il 10 dicembre al Teatro del Lido di Ostia e poi ne parleremo ancora più avanti. Ancora danza, e siamo al Teatro Vascello, dove la Spellbound Contemporary Ballet, con la coreografia di Mauro Astolfi, presenta da questa sera fino al 10 di dicembre l'Arte della Fuga. L'Arte della Fuga è, ha poco bisogno di presentazioni, una delle più emblematiche opere di Johann Sebastian Bach, un capolavoro di grande fascino, insomma, che conosciamo ampiamente, ma non fu mai terminata da parte del compositore. Quindi questo senso di indeterminatezza, questa assenza di completezza, insomma, questo senso di incompletezza che attraversa l'opera, effettivamente forse il suo portato più innovativo, più forte. Dal 5 al 10 dicembre, L'Arte della Fuga al Teatro Vascello. Segue ancora il Teatro di Roma con un paio di appuntamenti. Vado a segnalare intanto dal 6 dicembre fino al 7 gennaio Sala Squarzina, le storie di Natale a cura della piccola compagnia del Piero Gabrielli, storie da Gianni Rodari, Bernard Friot, Andrea Valente e lo stesso Roberto Gandini, che ne è il direttore. Vedremo insomma delle storie, delle filastrocche legate alla figura di Babbo Natale e in generale insomma all'evento natalizio. Poi però andremo a vedere anche altri spettacoli sempre al Teatro di Roma, e precisamente dal 5, da questa sera fino al 21 dicembre, l'interpretazione dei sogni da Sigmund Freud e con Stefano Massini, che si ispira agli scritti di Freud per ragionare sul sogno, per ragionare sulla relazione tra la fase onirica, la visione notturna e la visione diurna, il reale e l'irreale, più che altro il reale e l'immaginifico, ecco, potremmo dire meglio in questo modo. Fino al 21 dicembre, da questa sera, l'interpretazione dei sogni al Teatro Argentina. E poi ancora da ricordare sicuramente il delitto di Via dell'Orsina con la regia di André Ruth Chammat, che sarà al Teatro Ambro Iovinelli da domani 6 fino al 17 dicembre, con in scena Massimo Rapporto, Antonello Fassari, Eugène Marin Labiche è l'autore di questo testo, insomma classico, ormai arcinoto, il delitto di Via dell'Orsina, un atto unico di Labiche, del vaudeville francese, uno spettacolo fatto di equivoci, una farsa del ridicolo all'interno di un contesto che è quello della buona borghesia. Quindi insomma Questo è quello che andremo a vedere al teatro Ambro Iovinelli da domani. Ma io voglio segnare un paio di cose ancora. Un testo di Edoardo Erba, Il marito invisibile, sarà in scena con Maria Amelia Monti e Marina Massioni da stasera fino al 10 dicembre al Teatro Quirino. Mi piace però ricordare due o tre cose in particolare per ciò che riguarda questa settimana. La prima cosa che vorrei ricordare è uno spettacolo molto breve, ideato già qualche anno fa, in occasione dell'anniversario delle Torri Gemelle, l'11 settembre del 2001, che ha cambiato le sorti del mondo. E ci hanno lavorato Elsa Galbato, Fabio Sargentini, e lo spettacolo che scena presso quella galleria teatrale che è l'Attico, dalle parti di Campo dei Fiori, Piazza Navona, si chiama Frenata sul Lungotevere. E ci tengo a segnalarlo perché lo spazio è stato chiuso per tanto tempo e mi fa piacere poterlo segnalare. Si tratta di due giovani che percorrono in auto il Lungotevere e cercano di frenare ma non riescono ad evitare l'investimento di un piccione. È l'annuncio di un presagio, di qualcosa di terribile che sta per accadere. E questo è quello che andremo ad indagare appunto fino al 10 dicembre per questo spettacolo Frenata su Lungotevere in scena all'Attico di Fabio Sargentini. E ancora ricordo un paio di cose. Qualche anno fa mi ricordo questa storia vista dai social di un teatrante che non conoscevo, che Arduino Luca degli Esposti, si era tolto la vita sotto un treno tra Fidene e Montelibretti, un poeta, qualcuno che lavorava con le parole. E adesso Giovanni Onorato, cioè Mario Russo, presenta questo lavoro dedicato appunto a Alde, Arduino Luca degli Esposti, per riflettere su che cos'è il mistero della vita e capire come sia possibile starci dentro a questo mistero e cercare di stare bene, capire quali sono le ferite e cosa manca agli esseri umani per essere felici. Alde, non ho mai voluto essere qui. Alle Carrozzerie Notte, 8, 9 e 10 dicembre. E in ultimo, mi fa piacere ricordare ciò che accadrà al Teatro Basilica questa settimana, ossia l'arrivo a Roma di Giulia Trippetta, che scrive, interpreta e dirige tutta la sua questo lavoro dal 7 al 10 dicembre, Questa non è casa mia. Un'attrice su una scena vuota, pochi oggetti e una domanda che suona durante l'intero spettacolo. Qual è la mia casa? Una domanda semplice che muove la protagonista ad affrontare un viaggio, la ricerca di un posto che possa darle quel senso di serenità che ormai ha abbandonato da anni. Questo ci presenterà Giulia Trippetta al Teatro Basilica dal 7 al 10 dicembre. E con questo direi che abbiamo concluso. È tutto. Ciao! Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.